Visionare il cinema su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page ci ascolta la diretta. Il cinema, dicevamo, tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario I'm Not Your Negro di Raoul Peck, in uscita in sala il 21 marzo prossimo. Anastasia, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, stiamo preparando le ultime cose, appiccicando gli ultimi poster e siamo pronti ad accogliere anche Raoul Peck, che è in realtà in arrivo in Italia e sarà ospite dell'anteprima nazionale del film all'interno del Festival del Cinema Africa America Latina qui a Milano. Sì. Quindi il 20 ci sarà l'anteprima, un giorno prima dell'uscita in sala ci sarà l'anteprima nazionale in sua presenza qui a Milano. Senti, per chi non lo conoscesse, diamo qualche indicazione su Raoul Peck? Sì, Raoul Peck è un regista haitiano che ha fatto vari documentari prima di questo e mi risulta che sia, però correggimi anche tu se sbaglio, che in realtà lui abbia fatto il primo film di finzione proprio quest'anno, cioè nel senso che il primo film almeno che io conosco, quindi anche qui se mi sbaglio correggimi, è quello che è stato presentato a Berlino quest'anno, il giovane Karl Marx, che io ho visto e che tra l'altro spero, di cui spero presto di potervi parlare anche di quello, perché è un altro film. Allora, che vorremmo, ci diamo già un appuntamento ideale. Sì, esatto. Senti Anastasia, allora, parlando del documentario, arrivando a questo lavoro, raccontaci un po' per sommi capi il tessuto di questo documentario. Allora, innanzitutto esordisco dicendo e ricordandovi che il film documentario è stato anche nella cinquina degli Oscar, candidato all'Oscar, e per un pelo eravamo lì e speravamo tutti che lo vincesse, anche se diciamo le scommesse, tutti i siti dei critici americani davano già OJ come vincitore, però noi ci abbiamo sperato e creduto fino alla fine. Il film è un film molto importante che racconta la storia di questo grande intellettuale afroamericano, nonché scrittore, saggista, che ha avuto un grandissimo ruolo anche nei movimenti contro le discriminazioni razziali, ha partecipato a tutti i movimenti dagli anni 50-60 negli Stati Uniti, era amico di Malcolm X, amico dei più importanti neri che hanno fatto una battaglia seria in prima linea contro le discriminazioni. Il film costruisce questo personaggio, riporta in vita in qualche modo James Baldwin, utilizzando come diciamo ossatura un testo inedito che viene letto da Samuel L. Jackson con la sua bellissima voce avvolgente che ritroverete in sala perché noi lo sottotitoleremo e basta. E utilizza a livello visivo tantissimo repertorio dell'epoca, quindi diciamo delle lotte per il movimento oppure anche delle immagini di Baldwin stesso, incrociandola, mixandola, montandola assieme anche degli estratti di film hollywoodiani che in qualche modo, con lo scopo in qualche modo di raccontare anche l'Italia, l'America, ma anche il mondo ai noi di oggi e intuirne, farci intuire quelle che siano ancora le vicinanze ai noi e anche le differenze, cioè quanto il tema razziale purtroppo non sia ancora di grande attualità e quindi è un film molto importante anche ora, in particolare vedendo poi cosa sta succedendo negli Stati Uniti oggi, è una riflessione sul tema del razzismo a tutto tondo. Sì. Si tratta poi di tre ritratti, in particolare di tre afroamericani uccisi negli anni 60 a poca distanza l'uno dall'altro. Sì, infatti c'è anche questa parte, ovviamente perché lui era anche loro amico, ma era vicino. James Baldwin ha, tra l'altro, ha pubblicato a suo tempo anche per Feltrinelli, è anche un autore che Feltrinelli ha pubblicato negli anni 60, 64, 64, 69, con dei testi già allora ancora più di oggi rivoluzionari. E lui viveva, diciamo, tra Parigi e gli Stati Uniti, e negli Stati Uniti partecipava appunto a questi movimenti con in prima linea, insomma. E così racconta anche questo, racconta anche con repertorio queste rivoluzioni culturali negli Stati Uniti. Tra l'altro, con l'utilizzo di un prezioso materiale d'archivio, sia di fotografie che filmati, e un testo intellettualmente molto solido, che è appunto lo scritto a cui facevi riferimento. Sì, assolutamente. Infatti è un'altra cosa incredibile, che ti fa proprio venire voglia di approfondire ancora di più e di andare a scoprire, a riscoprire il lavoro e l'opera di Baldwin. E quindi assolutamente è anche uno stimolo a riscoprire un grande intellettuale dimenticato, perché non lo conosce praticamente quasi nessuno oggi. Ci sono poi dei paralleli con l'oggi. È pur vero che c'è stata una doppia presidenza Obama, ma è anche pur vero che le brutalità poliziesche si sono accanite contro la comunità afroamericana nel corso dei decenni, anche gli ultimi decenni, e le carceri statunitensi in proporzione sono abitate per lo più da afroamericani. Sì, infatti ci sono dei continui, diciamo, rimandi all'oggi, e anche appunto, come ti dicevo prima, attraverso un po' il cinema si intuisce anche che in realtà anche Hollywood ha avuto la sua parte nel costruire queste discriminazioni, insomma, con degli estratti di film molto semplificativi in questo senso, che raccontano sempre il nero di serie C, e sempre ruoli sempre subalterni, come anche attraverso il cinema in qualche modo il cinema abbia contribuito a creare, aumentare questo immaginario. Sì, esatto. Senti, che modalità di uscita? C'è il 21 marzo come data, che non è casuale. No, infatti, perché è la giornata mondiale contro ogni razzismo, contro la discriminazione razziale, quindi poi partiamo da quella data per questo, e poi andiamo avanti a sempre. Devo dire che molte sale stanno aderendo, adesso partiamo con una quindicina, ma altre si sono già sono già in attesa di altre date, che magari non riuscivano a seguirci proprio il 21, ma che programmeranno il film immediatamente dopo. Poi abbiamo anche l'intenzione di lavorare con le scuole, perché ci sembra importante che questo film abbia anche quel tipo di distribuzione e che quindi arrivi ai giovani e agli studenti e offra uno spunto di riflessione e di approfondimento anche dentro le classi. Insomma, stiamo lavorando anche sul binario scuole, che in questo caso specifico riteniamo essere veramente molto molto importante. Per il calendario delle sale ci lasci tutti i riferimenti web di Wanted Cinema? Sì, esatto, quindi il sito www.wantedcinema.eu, e poi la nostra pagina Facebook Wanted Cinema, che è sempre costantemente aggiornata, e quindi lì trovate tutto sempre. Anastasia, un abbraccio, alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Anastasia Plazzotta di Wanted, sulla distribuzione del documentario I'm Not Your Negro di Raoul Peck, in uscita in sala il prossimo 21 marzo. Il regista Francesco Bartoli, curatore della mini rassegna Io Migrante, tra visioni e realtà, al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma oggi giovedì 16 marzo. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, una mini rassegna, due titoli, parlaci un po' di questa iniziativa. Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli amici Antonio Rezza e Flavia Mastrella che ci hanno consigliato il nuovo, che mi hanno consigliato personalmente il nuovo Cinema Palazzo per presentare questa mini rassegna. Allora, la mini rassegna si intitola Tra io migrante, tra visione e tra visioni e realtà. Ha come obiettivo quello di presentare due film indipendenti. Il primo è Tre titoli di Nico Angiuli, il primo che proietteremo questa sera, e il secondo è una mia opera e si intitola In Search for Nothing, e chiuderemo appunto poi con il dibattito e con l'incontro col pubblico, insomma. Permettimi l'occasione di presentare due film che nascono da un approccio completamente diverso sul problema e sulle questioni migranti. Infatti io sono un artista visivo, anche Nico Angiuli è un artista visivo, e volevamo appunto unirci per proporre una serata un po' diversa e quindi per dare la possibilità di vedere anche due opere che sono state, come dire, sofferte, che però secondo noi hanno dei parallelismi e delle similitudini molto molto forti, quindi per questo presentarle insieme stasera. Permettimi di dire tra l'altro che almeno il mio punto di partenza è stato che l'artista, a differenza del politico, dell'attivista o del giornalista, ha la capacità di affrontare un certo problema da un altro punto di vista, no? Quello che in gergo chiamiamo gesto o azione poetica. Ecco, almeno per quanto mi riguarda ho usato questa capacità, ecco, come strumento di integrazione sociale, e quindi ho visto poi nell'opera di Nico delle similitudini, e quindi da lì parte l'idea della mia rassegna di questa sera. E l'altro, rispetto all'altro titolo, cosa ci dici? Rispetto al titolo di In Search for Nothing? Sì. Il mio in particolare? Allora, se vuoi ti parlo un po' di tutti e due i film. Sì, parliamo un po', ecco, brevemente, facciamo dei riferimenti. Esattamente. Allora, Tre titoli di Nico Angiuli è un viaggio nel mondo bracciantile tra passato e presente, che si intreccia un po' sul corpo della comunità ghanese che lavora nei campi di pomodoro, oggi a Tre titoli, appunto, nell'agro di Cerignola, in provincia di Foggia. Tra l'altro è il paese che fu avanguardia nazionale per le rivendicazioni sindacali, che diede i natali appunto a Giuseppe Di Vittorio, leader e padre della moderna CGIL postbellica. Il film ha proprio per protagonisti i figli dei contadini che lottarono con Di Vittorio e oggi appunto proprietari terrieri, e i nuovi braccianti locali, oggi africani. Il film inoltre è dedicato alla memoria di Baldina Di Vittorio. Per quanto riguarda In Search for Nothing, il mio titolo è un film documentario che è nato da un laboratorio di videoarte con migranti minori non accompagnati, e quindi è stato un progetto articolato, suddiviso in tre parti, insomma. Quella prima di trovare un centro di primissima accoglienza per minori non accompagnati, e l'ho trovato appunto a Ragusa, il posto che ha ospitato il laboratorio, poi la parte del laboratorio stesso con i migranti minori di videoarte, e poi la post-produzione e la promozione del film. Insomma, un lavoro complesso che nasce appunto con l'intento di creare nuove dinamiche di interazione tra i migranti minori, le cosiddette anime in fuga, e la comunità che li ospita. È stato un percorso intenso, e da cui sono usciti tantissime immagini, e poi sono riuscito a tirar fuori il film che vedremo stasera. L'idea principale del film era quello che con la scusa di insegnare loro un nuovo mezzo di espressione come il video, volevo farli uscire in strada, volevo farli interagire con la comunità, appunto, e quindi dargli una voce loro, insomma, che fossero loro. L'intento era che per me dovevano essere loro i veri protagonisti, dovevano essere loro a raccontare la loro storia, ma non con la voce, ma con delle immagini, delle performance, delle narrazioni audiovisive, degli esercizi sul disegno che abbiamo fatto e poi registrato. Ci dici tutto il calendario di orari per questa giornata di oggi? Sì, assolutamente sì, invito tutti alle 9:30 al nuovo cinema Palazzo di San Lorenzo. Partiremo con il primo titolo, che è tre titoli di Nikon Giuli, poi In Search for Nothing di Francesco Bartoli, appunto io me stesso, e poi incontreremo il pubblico per un dibattito che spero sia vivo e importante. Insomma, questa è l'occasione, ripeto, fammelo dire ancora una volta, di vedere due film indipendenti sofferti, ma che secondo me stanno tuttora facendo un bellissimo percorso tra sale, istituzioni e gallerie d'arte contemporanea, ma che hanno secondo me un taglio interessante, cioè che comunque quella l'idea di parlare di queste questioni da un altro punto di vista e di fare politica, diciamo, attraverso la poetica in questo caso. Quindi importante il dibattito, importante vedere i film, importante rimanere e parlare appunto delle nostre esperienze, perché sia io che Nico abbiamo fatto due viaggi molto intensi in quelle comunità che ci ha ospitato, è importante trasmetterlo agli spettatori. Bene, allora ci lasci anche i riferimenti web o dell'evento o dei entrambi i lavori? Sì, allora il riferimento del web della serata di stasera è senz'altro la pagina web del Nuovo Cinema Palazzo, poi il Facebook appunto del Nuovo Cinema Palazzo e Facebook I Passi Studio, tutto attaccato, che è un po' l'organizzatore dell'evento insieme al Nuovo Cinema Palazzo di questa sera. Benissimo, un abbraccio, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie, un abbraccio a voi, grazie. Ciao. Arrivederci. Il regista Francesco Bartoli, curatore della mini rassegna Io Migrante, tra visioni e realtà, al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma oggi giovedì 16 marzo. Eccoci con Giulia Giorgi di Baburca Production per parlare di due appuntamenti. Il primo è con il documentario My Escape di Elke Sasse allo Spin Time Labs qui a Roma oggi giovedì 16 marzo, e l'altro è l'open call per il cartello degli indipendenti all'ex sala consiliare della Marranella qui a Roma per dopodomani 18 marzo. Allora Giulia, ben ritrovata a Visionari, parlaci di queste due iniziative. Grazie innanzitutto per, insomma, averci dato questa possibilità di parlare delle nostre iniziative. La prima, appunto, questa sera è My Escape, un documentario molto particolare sui rifugiati dall'Afghanistan, Siria, Eritrea, Iran, che hanno filmato il loro viaggio verso l'Europa con i propri cellulari. Quindi la regista, quello che ha fatto in questo progetto particolarmente toccante, è inserire tutte delle testimonianze di persone che sono scappate dai propri paesi di provenienza a causa dei conflitti in atto in quell'area del mondo. E secondo me è un progetto, insomma, decisamente interessante da vedere, non solo per le tematiche comunque importanti e estremamente attuali, ma perché ci presenta anche il ruolo dei cellulari e delle nuove tecnologie all'interno di tutto quello che sta succedendo, anche proprio per testimoniare e per non dimenticare quello che avviene ad oggi nel nostro mondo, e renderlo quindi condivisibile con tutte le realtà anche dei paesi che comunque invece non hanno questo tipo di problematiche. Senti, invece, per quanto riguarda la giornata di sabato, La giornata di sabato invece, il cartello degli indipendenti nasce da una necessità che noi come Baburca, che siamo una cooperativa di produzione cinematografica, abbiamo scelto questo genere di compagine sociale proprio perché crediamo in un'amministrazione societaria condivisa. Abbiamo avuto una necessità dicendo ok, ci sono tante persone a Roma che si occupano di cinema indipendente, ma che cosa significa? Analizziamo quello che facciamo e come possiamo metterci in rete con altre realtà simili alle nostre. E perciò, avendo una mailing list abbastanza fornita, grazie insomma agli eventi che abbiamo anche organizzato in passato e facendo una chiamata insomma anche su Facebook e con tutti i contatti che abbiamo raccolto negli anni di esperienza, abbiamo fatto questo invito a tutte le realtà sul territorio, e non perché abbiamo delle persone che vengono anche da Milano, che sono degli studi con cui collaboriamo. Il vero problema insomma del cinema indipendente è che innanzitutto siamo indipendenti da chi nello specifico, quindi avere la gestione di piccoli budget non significa necessariamente essere limitati, e quindi quello che ci siamo detti è importante confrontarci con delle realtà simili alle nostre per fare rete, quindi ogni realtà magari sarà più forte, non so, chi sulla post-produzione, chi sugli effetti speciali video. Noi siamo particolarmente completi perché la nostra cooperativa si occupa dalla pre-produzione alla post-produzione e riesce a fornire una troupe completa, e il nostro valore diciamo produttivo in quello che è il cinema indipendente è proprio la forza lavoro e le competenze e avere dell'attrezzatura. Però siccome per fortuna insomma anche il lavoro si espande, c'è bisogno di più personale e di poter quindi creare rete e sinergie con delle realtà similari. Tutto questo porta poi al dopo, cioè e dopo i nostri progetti che sono stati prodotti dove vanno, come facciamo a distribuirli, e quindi per dare anche un là ad una rete alternativa di distribuzione che tenga conto del fronte dei festival, dell'on demand sul web e di un circuito cinematografico comunque di tutte sale autonome autogestite che non necessariamente devono essere formalmente riconosciute, ma che sono invece spazi per dare voce ai progetti che insomma su cui tutti noi lavoriamo. Allora, gli orari della giornata di sabato? Sabato l'appuntamento è alle 4 alla sala municipale di via Marranella 2 a Tor Pignattara, e sarà un incontro di circa un'oretta e mezzo. Fondamentalmente vogliamo fare una piccola panoramica su quella che è la realtà del cinema indipendente ad oggi, che comunque ha anche un peso importante sulle produzioni nazionali. Oltre il 50% dei film prodotti in Italia hanno un budget inferiore ai 200.000 euro, e di questi il 60% ha un budget inferiore ai 60.000 euro, quindi rappresenta proprio quanto effettivamente in una produzione complessiva di circa negli ultimi anni 200 titoli l'anno sia importante il tipo di cinema che facciamo noi. E poi da lì fare una tavola rotonda in cui tutte le realtà sia esistenti formalmente che a livello informale, perché anche questo è importante, non tutti hanno la forza anche economica di poter affrontare una compagine legale, si presentino, perché attraverso società che magari già esistono da più tempo è possibile dare spazio e voce a insomma delle realtà più piccole. Giulia, allora ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, potete trovare tutto sulla nostra pagina Facebook, che è Baburca con la K Production, sul nostro Instagram e sul sito, che è www.baburcaproduction.com. Fra l'altro è appena uscito un articolo insomma sul nostro blog riguardante proprio anche la giornata di sabato, quindi potrete avere delle maggiori informazioni anche lì. Un abbraccio e alla prossima, Giulia. Grazie mille, buon ciao. Proseguimento anche a te, ciao. Giulia Giorgi di Baburca Production, sul doppio appuntamento, il primo con il documentario My Escape di Elke Sass, classe che sarà allo Spin Time Labs oggi qui a Roma, giovedì 16 marzo, e il cartello degli indipendenti, un open call all'ex sala consiliare della Maranella qui a Roma per sabato 18 marzo alle 16. Cristina del Cine Club de Tour per parlarci della serata Tre registe palestinesi per domenica 19 marzo. Cristina, ben ritrovata. Ciao a tutti, grazie Federico, grazie mille. Allora, seguo sempre la vostra programmazione, questo appuntamento non poteva mancare, parlacene tu. Allora, questo appuntamento fa parte di una rassegna intitolata Sorelle, e di cui questo è il secondo appuntamento, e vuole raccontare, con questa rassegna vogliamo raccontare personaggi femminili, protagonisti sicuri della loro vita, e Sorelle nasce anche per stare insieme, discutere poi insieme di temi di vario genere, dalla musica come forma di lotta al come in questo caso con le tre registe palestinesi in collaborazione con Astro Pace Palestina. E sono tre registe che hanno lavorato sulla tradizione orale delle donne palestinesi, soprattutto di una certa età, che raccontano quel che è successo tempo fa, che noi tutti già sappiamo, ma la forma del racconto è molto fresca, sono fatti con pochissimi mezzi, come potete immaginare, e fanno parte veramente, questi tre cortometraggi che abbiamo scelto fanno parte di una serie di 5 cortometraggi prodotti dall'autrice di La sposa di Gerusalemme e 130 pound in my pocket, e Sahira Dirbas, penso sia questa la pronuncia giusta. E i tre cortometraggi sono di tre generi diversi, e uno però raccontano tutte storie dal vivo, sono molte interviste, molte immagini, molte fotografie di repertorio che ci raccontano quello che, da quello che abbiamo capito, non molti vogliono che sia raccontato, e anche dei loro profumi, non soltanto di cose brutte o cose successe, ma la cosa meravigliosa è che anche in questi casi, quando raccontano cose difficili che le sono successe, le raccontano sempre con una grande forza, un grande spirito di ottimismo, nonostante veramente quello che poi vediamo non sia poi così facile. E la collana di gelsomino invece è quella più profumata, che racconta le tradizioni e le loro usanze delle donne palestinesi, la loro vita, queste collane di gelsomino che vanno a arricchire gli eventi di cerimonie, quindi ecco, non è soltanto un allora non fai, il popolo palestinese non si lamenta, combatte con tanta forza, e quindi mi faceva molto piacere poter raccontare anche questo. E poi volevo dire che una parte di questo, del ricavato della serata, con Astro Pace Palestina, andrà all'asilo di Al-Smahara, che è gestito da tre giovani donne. Vi aspettiamo. E poi il terzo appuntamento è con invece col documentario di Susan Santa, che è la prossima domenica, sempre per la rassegna Sorelle. Comunque tutto marzo è stato dedicato alle buona parte della programmazione di maggio dedicata alle registe donne e a personaggi femminili forti. Benissimo. Cristina, tutti i riferimenti web nel salutarci. Allora, www.cinedetour.it e Facebook Cinedetour. Vi aspettiamo, numerose. Grazie Federico, un abbraccio, a presto. Ciao. Grazie Cristina, ciao, ciao. Ciao Cristina del Cine Club de Tour sulla serata intitolata Tre registe palestinesi il domenica 19 marzo. Parliamo ora della 27esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, a Milano da il 19 al 26 marzo con la direttrice Alessandra Speciale. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno. Stavo notando anche per questa puntata che c'è una netta maggioranza di voci di donne, il che mi fa solo che piacere. La scorsa settimana erano addirittura 10 su 12 ospiti, anche questa volta ce ne sono tante, il doppio rispetto alle presenze maschili, e questo è un dato. Partiamo da qui. Questo, devo dirti la verità, è un dato più di realtà che di selezione, nel senso che sì, noi spesso, a meno che non conosciamo la regista, quando affrontiamo un'opera prima ad esempio, spesso non sappiamo neanche di che genere perché a volte arrivano film tipo questo film bhutanese che abbiamo preso in competizione, Honey Giver Among the Dogs, e il regista si chiama Dechen Roder. Abbiamo solo capito che era una donna solo quando ha detto che non poteva venire al festival perché era incinta. Quindi in realtà è un dato di fatto che ci sono molte donne che si esprimono da questi continenti, che esprimono la loro creatività e che fanno dei bellissimi film. Allora, quindi poi appunto risulta una maggioranza rispetto incontro alla tendenza, diciamo, mondiale, se vogliamo, che vede sicuramente decisamente gli uomini in vantaggio rispetto alle donne in termini, diciamo, di espressione cinematografica. Allora, 27 edizioni, una storia importante che è cominciata con l'Africa allargandosi poi ad altri due continenti, giusto Alessandra? Ormai tanti anni fa, il passaggio tra Festival del Cinema Africano a Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina ormai è nel 2004, per cui facciamo i conti, sono ben 13 anni, sono ben 13 anni, anche se poi il cuore africano c'è sempre, e un'attenzione in particolare all'Africa c'è. Ad esempio il concorso cortometraggi l'abbiamo tenuto africano, anche perché il concorso cortometraggi tre continenti sarebbe molto molto impegnativo, però con i cortometraggi africani noi vogliamo tenere sempre molto accesa l'attenzione sulle nuove tendenze, i nuovi giovani. E per dirti, quest'anno abbiamo con grande onore e piacere il film di Alain Gomis in competizione, Félicité, che è un film che ha recentemente vinto l'Orso d'Argento a Berlino e anche il FESPACO, il grande festival del cinema africano, e Alain è uno di questi giovani registi che 15 anni fa, se non 20 anni fa, portò qua il suo primo cortometraggio. Quindi, allora, quante sono le opere che presentate in questa edizione e come è suddiviso il festival? Le opere sono circa una cinquantina, e la suddivisione, ormai i concorsi sono confermati così da un po' di anni. Abbiamo il concorso lungometraggi Finestre sul Mondo, che è il concorso principale che unisce i lungometraggi sia di fiction che documentari di Africa, Asia e America Latina, e che concorre appunto per il Gran Premio del Festival. Poi abbiamo il concorso cortometraggi africani e poi abbiamo un concorso che quest'anno compie 10 anni, che è un concorso unico ancora in Italia, che è il concorso Extra Razzismo Brutta Storia, che raccoglie film italiani, sempre recenti appunto, di italiani o che hanno girato il loro film nei tre continenti o che hanno trattato le tematiche dell'immigrazione in Italia. E per italiani intendiamo tutti, italiani residenti in Italia, quindi seconde generazioni. E questo concorso in 10 anni ha visto una grande evoluzione, perché abbiamo cominciato con pochi titoli e quest'anno ne abbiamo ricevuti 70, quindi questo significa comunque andare a girare nei tre continenti o sui temi dell'immigrazione è sicuramente una fonte di ispirazione in questo momento per i nostri registi. Ne presentiamo una quindicina e con i concorsi ci fermiamo qua. Invece per le sezioni parallele abbiamo la sezione parallela Where Future Beats, dedicata all'Africa, che riprende il claim del festival di quest'anno. In particolar modo abbiamo messo l'attenzione sulle nuove generazioni, soprattutto seconde generazioni che vivono a cavallo, cioè transnazionali che vivono a cavallo tra l'Europa e l'Africa. anche da queste nuove generazioni rivoluzionarie che dal Nord Africa arrivano in Europa e portano ancora quella ventata, no, di lotta per la difesa dei diritti, che forse a volte qua abbiamo un po' dimenticato. E poi Concessione Parallela è una novità quest'anno, una collaborazione con la Fondazione Feltrinelli in questo bellissimo edificio che hanno appena costruito, che è uno spazio per la cultura di nuovo a Milano, fatto da Fondazione Feltrinelli, e all'interno di questo palazzo abbiamo fatto una nuova sezione che è una collaborazione. Feltrinelli sono dei ricercatori molto attenti, un osservatorio molto attento alle dinamiche e all'evoluzione delle democrazie, e quindi abbiamo fatto una sezione di 4 film sull'America Latina che saranno preceduti da talk della fondazione, che punteranno, cioè anche lì sempre il focus su queste democrazie, come loro hanno chiamate, inquiete. Si parlerà quindi di Venezuela, si parlerà di Cile, si parlerà in generale dei paesi dell'America Latina, con sempre prime nazionali. Ad esempio presentiamo in prima nazionale Much Ado About Nothing di Alejandro Almendras, che forse alcuni di voi ricorderanno, To Kill a Man, che aveva vinto il Sundance e poi anche il nostro festival a Milano qualche anno fa. E poi in ultimo un omaggio, questa volta per la prima volta il festival fa un omaggio a uno sceneggiatore, Liu Zhenyun, che è un grandissimo scrittore cinese che però è anche un grande sceneggiatore. Presentiamo le sue ultime due opere a Milano. E poi Flash, cioè i film importanti, quelli che hanno avuto grande successo anche nei maggiori festival internazionali. Apriamo con I'm Not Your Negro di Raoul Peck, candidato all'Oscar. Anche Raoul è uno dei beniamini del festival, che viene da noi ormai da più di 20 anni. Sì, ne abbiamo parlato poco fa proprio con Anastasia Plazzotta del... Sì. Abbiamo appunto organizzato questa anteprima nazionale insieme con Anastasia, Real Cinema e Wanted, che sono tutte le realtà, diciamo, che partecipano alla presentazione di questo film in Italia, che poi andrà anche in sala. E poi la prima europea dell'ultimo film di Hector Babenco, My Hindu Friend, che porterà a Milano a presentare il film l'attore protagonista principale Willem Dafoe, per cui abbiamo anche una star hollywoodiana quest'anno a Milano, che comunque ci presenta un film di Babenco, un film molto forte proprio per la tematica, perché è stato già un po' un suo film testamento. E poi abbiamo anche per la prima mondiale di 4 primi film virtual reality 360 gradi che arrivano dall'Africa. Quindi una novità assoluta che potrete gustarvi in una sala che adibiremo proprio al virtual reality all'interno del Festival Center, quindi là dove il futuro pulsa, come dice il nostro claim. ci doveva esserci anche il virtual reality. Nel salutarci ci lasci riferimenti web relativi alla programmazione? Trovate tutto su festivalcinemaafricano.org. Benissimo. Alessandra, grazie. Un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio. Ciao, grazie mille. Alessandra Speciale, direttrice della 27ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 19 al 26 di marzo. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci seguite in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito, sempre dal sito della radio, sempre sull'home page c'è Ascolta la diretta. Ed eccoci con Maud Corino di Zalab per parlarci del documentario Les Auteurs, un'opera di tre autori che sarà presentata anche a Roma oggi, giovedì 16 marzo all'Apollo 11. Maud, ben ritrovata su queste frequenze. Dicevo ben ritrovata a Visionari, ciao. Allora, cominciamo con il parlare di questo documentario, di cosa si occupa? Sì, allora, questo documentario che viene presentato a Roma questa sera nella sua prima proiezione all'Apollo 11 alle 21, si chiama appunto Les Auteurs ed è stato fatto da tre registi. Un tedesco, un danese e il terzo è un ragazzo magliano che ed è la particolarità, diciamo, principale di questo documentario, questo ragazzo che si chiama Abu e co-regista è anche protagonista del film, nel senso che è proprio lui a girare insomma la vicenda di cui tratta il film. La vicenda è la seguente: sappiamo insomma che c'è questa enclave spagnola nel nord del Marocco, Meilla, che è uno dei passaggi che i migranti utilizzano per riuscire ad arrivare in Europa. E come tutti questi passaggi, diciamo che è un passaggio altamente vigilato con tre grandissime grate che separano appunto questi migranti dalla possibilità di entrare a Meilla, a quel punto nel territorio spagnolo, e di poter accedere insomma all'Occidente. Questi migranti, che sono migliaia appunto, passano, come dire, moltissimo tempo, molto spesso, prima di riuscire a rischio della vita a oltrepassare insomma questo confine. Abu è uno di loro ed è stato lì per oltre un anno, quindi il film racconta dal suo punto di vista questo lunghissimo periodo in cui appunto Abu è stato lì assieme ai suoi compagni nel tentativo difficilissimo di passare il confine. Senti, il vostro incontro con questo lavoro e poi la decisione di programmarlo in Italia? Beh sì, Zalab da sempre, da oltre 10 anni, si occupa, uno dei suoi temi principali è appunto la migrazione, e quindi diciamo che è stato un incontro sia dal punto di vista tematico, perché sono film che insomma sono su cui abbiamo una particolare sensibilità, e anche rispetto al processo in cui è stato fatto, cioè il fatto che finalmente insomma è uno dei rari film, perché noi sentiamo spessissimo, vediamo film sulla migrazione, ma è molto difficile vederli non dal punto di vista di noi occidentali, ma dal punto di vista di qualcuno che appunto viene, che è proprio un migrante, che vive queste vicende dall'interno. E questo si sposava benissimo anche con un'altra parte dell'attività di Zalab, che è quella da sempre sul video partecipato e partecipativo, per cui insomma è un film per noi interessantissimo, e poi che chiaramente porta una tematica molto molto attuale. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, quali saranno le modalità oltre alla proiezione di quest'oggi all'Apollo 11? Allora, il film ha già cominciato la sua distribuzione, nel senso che tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo ha girato nel Veneto. Adesso abbiamo la prima proiezione a Roma e il film viene poi replicato nei giorni a seguire, quindi da oggi, dal 16 fino al 22 di marzo, e poi se va bene insomma speriamo di aggiungere altre date. E poi abbiamo delle date anche a partire da domenica a Genova, poi a Torino e poi a Milano, e poi scenderemo verso il sud Italia. Benissimo, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti internet. Assolutamente, vi lascio il nostro sito che è www.zalab.org e poi la mail, perché quello che facciamo è, oltre a fare una distribuzione diciamo in sala, no, con l'uscita classica cinematografica, invitiamo sempre tutti, associazioni ma anche liberi cittadini, chiunque è interessato insomma al tema dei nostri film, a contattarci per organizzare una proiezione, e l'indirizzo email è distribuzione@zalab.org. Maud, un abbraccio e a risentirci presto. Anche a te, grazie mille. Ciao. Maud Corino di Zalab sul documentario Les Auteurs, di tre autori, oggi in proiezione qui a Roma, questa sera, giovedì 16 marzo, all'Apollo 11. Giuliana Gamba dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici sulla proposta unitaria di decreti per la legge cinema. Giuliana, ben ritrovata su queste frequenze. Grazie, saluto, buon pomeriggio a tutti. Allora, rispetto alla legge sul cinema ne abbiamo parlato un po' poco, però sì. Questa volta, visto che c'è stato un incontro promosso da parte vostra che ha visto insomma la partecipazione di diverse sigle da cui è uscita poi questa proposta unitaria, ne parliamo volentieri e tra l'altro più tardi sentiremo anche Marco Asunis, presidente della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, perché c'è stato un incontro che verteva anche su questa legge del cinema a Cagliari lo scorso dal 10 al 12 marzo. Allora, cominciamo con te, Giuliana, parlaci un po' intanto di questo incontro, facciamo un bilancio un po' di tutte queste sigle che si sono incontrate. Benissimo, dunque le sigle si sono incontrate perché dobbiamo essere tutti insieme più forti possibili per cercare di far passare almeno, cioè cercare di far passare le nostre richieste, perché sì, è stata fatta una legge cinema che non veniva approvata da tantissimi anni, penso 40 anni, però poi adesso ci sono i decreti attuativi affinché questa legge entri in vigore. E i decreti attuativi, come tutti noi ben sappiamo, possono cambiare molto il senso della legge, soprattutto la legge, secondo noi autori dell'ANAC, ma anche, parlo per noi come autori ANAC, è molto sbilanciata come sempre a favore della produzione e soprattutto della produzione non indipendente. E noi invece, come Associazione Nazionale Autori Cinematografici, tuteliamo, cerchiamo almeno di tutelare con il nostro lavoro quello che è il cinema cosiddetto d'autore, o oggi si può chiamare anche cinema difficile, cinema più sperimentale, cinema che ha meno uscite delle sale, cinema che dobbiamo assolutamente fare in modo che appunto nei decreti attuativi possa entrare e avere degli sgravi fiscali, possa fare proprio la normativa europea appunto per la tutela di questo cinema. Per cui le cose sono tante, sono importanti e noi stiamo lottando per questo e speriamo di avere qualche riscontro, anche se hanno fatto in questi giorni il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo e la composizione del Consiglio sono state escluse tutte le associazioni di categoria che noi avevamo proposto, e invece sono stati nominati rappresentanti soliti dell'ANICA, Associazione Nazionale Produttori, dell'APT, Televisivi, dell'ANEM, e gli autori no, cioè piccole e medie imprese e anche l'esercizio ANEC sono state completamente escluse. Noi avevamo fatto dei nomi e no, insomma, per mettere un nostro rappresentante, anche per avere delle informazioni dirette all'interno di questo Consiglio Superiore del Cinema, e invece siamo stati esclusi. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, che questa, diciamo, come donna ma anche come tutela della legge, sono state in questo consiglio, che sono 11 persone, solo 4 donne, senza rispettare la parità di genere che è prevista dalla legge. Per cui la battaglia per la tutela del cinema di qualità è una componente fondamentale della cultura italiana. Noi cerchiamo di difenderla e cerchiamo di fare tutto quello che è nostro, posso dire un po' il nostro compito, ma voglio dire, io personalmente sono un po' scoraggiata da questo periodo, dopo queste nomine del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, che neanche un autore dentro, a parte Rulli, che per carità va benissimo come presidente, però il resto non c'è. Non so, spero di avere risposto in maniera abbastanza esauriente. Poi sono una cosa un po' complicata, sì, perché questa cosa dei decreti attuativi è una cosa molto tecnica, no? Per cui è una cosa tecnica, ci sono tutte, se volete io qualche cosa ve la posso spiegare, però insomma, non so quanto gli spettatori, poi gli ascoltatori possono essere, non so, dimmi tu cosa. Ecco, però, ecco, proprio per chi ci ascolta, volevo chiederti, Giuliana, quali sono, per esempio, rispetto a questa proposta unitaria che è uscita fuori dal vostro incontro, i punti salienti sui quali vi siete concentrati rispetto a, appunto alla proposta che ne è venuta fuori. Se ci puoi dare qualche elemento in maniera molto sintetica. Allora, cercherò di essere sintetica. Appunto, essendo molto tecnica, affronta proprio gli aspetti tecnici, abbiamo lasciato, no? Che sono stati lasciati indefiniti dalla legge, sì. Che investono, ecco, questi aspetti tecnici sono stati, chiaramente la legge è una legge a grandi linee, no? Poi certe cose come avvengono e come si effettuano, appunto, come si applica la legge. Poi ci sono questi famosi decreti attuativi che sono, capito, investono il settore, tutto il nostro settore, tutta la filiera del cinema, dalla produzione all'esercizio, alla distribuzione e anche all'istruzione nazionale e internazionale per la promozione. E perché è anche un'altra cosa importantissima per il nostro cinema, per la conservazione del patrimonio nostro cinematografico, che è da valorizzare come un patrimonio artistico. Per cui noi abbiamo chiesto il reintegro delle risorse destinate ai sostegni selettivi, sì. Che sono stati tagliati per favorire il finanziamento degli enti pubblici del cinema, come Cinecittà Luce, la Biennale, e anche per favorire appunto il comparto della promozione, senza il quale il cinema di qualità, il cinema nostro indipendente, non potrebbe arrivare al suo pubblico. Già noi abbiamo un grande problema con le sale, no? Che per far arrivare certo cinema, che si, voglio dire, tanti film vengono prodotti, ma pochi arrivano poi nelle sale al pubblico. Sì. E poi c'è anche l'applicazione, questa è un'altra cosa tecnica, di una normativa europea che pone il divieto a sostenere le produzioni non indipendenti e le attività di intrattenimento televisivo. Invece nella nostra legge, così com'è, sembra, anzi è certo, che questi soldi che sono stati stanziati per il cinema audiovisivo vengano anche estesi alle attività di intrattenimento televisivo, per cui noi, questo è inteso anche come sgravi fiscali, crediti, sì. D'imposta, ecco, in tutto questo senso. E quindi insomma, noi ci sembra, non è che sto ballando sotto le stelle poveri sgravi fiscali, cioè, sì. Togliendo soldi e risorse al cinema, magari opere prime o seconde o under 35, ecco, non ci sembra giusto, ecco, per cui noi cerchiamo, tutte noi associazioni, di vigilare che appunto questi fondi stanziati, questa nuova legge che ha cambiato tante cose, alcune anche in meglio, ecco, però dobbiamo tutelare che questi, diciamo, decreti attuativi, cioè questo, come fosse questa strada che si è aperta, giunga a delle destinazioni che a noi ci sembrano, che noi difendiamo, ecco, sì, come associazione. Sì, sì, sì. Giuliana, avete lanciato già qualche appuntamento pubblico per questa vostra proposta? Noi abbiamo avuto un incontro col ministro, avremo un altro incontro col ministro e stiamo sensibilizzando diciamo tutte le associazioni, anche il MIBAC con Borrelli, che insomma, almeno ci ascolta, e speriamo, e poi speravamo, che così ci dicevano, che i decreti attuativi dovevano prima essere fatti per la fine di dicembre 2016, poi a gennaio, siamo già quasi a Pasqua e ancora non c'è ombra di decreto attuativo, per cui siamo anche, voglio dire, stiamo anche tutti premendo affinché questi decreti attuativi vengano almeno vagliati, approvati, insomma, perché c'è stata la crisi governo, nuovo governo, ecco, questo è diventato un po' un, come posso dire, ci sentiamo un po' messi da parte. Capisco che per lo Stato italiano siamo forse, sono delle priorità, però è anche importante, mi sembra molto la cultura, e soprattutto noi tuteliamo i nostri, no? I nostri associati, sì, sì. I nostri interessi anche. Vabbè, avremo modo sicuramente di sentirci prossimamente per Bene, le novità a questo spero punto. Di essere stata chiara. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora un abbraccio e a presto. Grazie, ciao Giuliana. Grazie a tutti, grazie, ciao, ciao. Giuliana Gamba dell'ANAC sulla proposta unitaria dei decreti attuativi per la legge cinema. Con Marco Asunis, presidente della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, per un bilancio dell'incontro che si è svolto a Cagliari dal 10 al 12 marzo. Marco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, rispetto alla legge cinema, abbiamo poc'anzi parlato con Giuliana Gamba dell'ANAC. Uno dei problemi annosi del nostro cinema italiano, è la questione della visibilità delle opere, e allora chiaramente è importante da questo punto di vista il punto di vista dei circoli del cinema. Allora Marco, facci un po' un bilancio di questo incontro, chi c'era e come è andata? Ma intanto l'appuntamento era abbastanza particolare, nel senso che noi ci siamo incontrati a Cagliari per 3 giorni in occasione dei 70 anni della fondazione della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e già questa è una prima importante riflessione, che si abbina poi ai 70 anni della fondazione della Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema, per sì. cui grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna e all'organizzazione del Centro Regionale della FICI Sarda abbiamo potuto organizzare un corso di autoformazione a cui hanno partecipato tanti operatori dei circoli della FICI, oltre a diversi operatori e rappresentanti della Federazione Internazionale. Erano presenti rappresentanti del Brasile, dell'Ecuador, della Catalogna, del Messico, del Burkina Faso e della Russia, per cui insomma abbiamo avuto una straordinaria occasione di confrontarci sulle politiche complessive che riguardano l'associazionismo culturale cinematografico, e poi in particolare abbiamo potuto confrontare le diverse linee legislative presenti nei diversi stati. Sì. Abbiamo concluso con un documento, insomma, e alla fine è emersa anche una dura critica nei confronti di una legge sul cinema e audiovisivo che consideriamo insomma come una sorta di controriforma rispetto a ciò che già avevamo. Ad esempio, da questo punto di vista, per Giuliana e per insomma tutte le sigle che si sono viste per tirar fuori una proposta unitaria, è parecchio sbilanciata dal punto di vista produttivo rispetto invece a quello autoriale, oltre che poi alla distribuzione. Sì, è talmente sbilanciata che potremmo definirla una sorta di legge classista, diciamo tra virgolette, però insomma ci dà il senso sì, sì. delle operazioni, delle scelte che sono state fatte. L'85% rivolto alla grande produzione, grande distribuzione, un 15% che va suddiviso in questo mare magnum che va dalla Biennale di Venezia, Istituto Luce, promozione sul cinema, cinema indipendente, insomma è una sorta di operazione davvero che non aiuta molto il cinema, il nostro cinema. Senti, vista l'ampia partecipazione di delegazioni estere, ci sono dei modelli virtuosi all'estero da prendere come riferimento? Ma il modello da prendere come provvedimento era il nostro, cioè quello della passata passata legge, quella sì. che è stata sostituita dalla nuova, che riconosceva le associazioni come rappresentanti dirette del pubblico. Sì. No, tutto questo è stato cassato, è stato cancellato e insomma le associazioni nazionali di cultura cinematografica ora sono equiparate alle sale religiose. E ai circoli del cinema, diciamo, e ai circoli. Quindi il tema principale è quello di porre al centro di questa operazione le sale per la proiezione, quindi per gli interessi che sono strettamente legati alla grande produzione, a quella distributiva. Tutto questo è stato cancellato e ci siamo accorti in realtà che le altre nazioni, gli altri paesi rappresentati da questi operatori della Federazione Internazionale mantengono norme, principi che tutelano l'associazionismo e tutelano quelli che sono i diritti del pubblico, delle loro rappresentanze, quindi loro mantengono questi elementi che sono importantissimi anche in funzione di una distribuzione cinematografica più capillare. Probabilmente non richiama i grandi pubblici delle grandi sale cinematografiche, richiama i piccoli pubblici, ma tutto ciò è fondamentale, importante in una logica di crescita culturale, di formazione del pubblico, perché è questo ciò che da 70 anni appunto abbiamo sempre fatto. Senti Marco, avete maturato delle controproposte materiali? Diciamo c'è un percorso strettissimo, perché noi siamo di fronte ad una legge che ormai ha sentenziato quelle che sono le scelte e sono quelle che ho appena detto, cioè un taglio e una chiusura netta nei confronti del nostro lavoro e della nostra presenza storica nel nostro paese, per cui diciamo c'è una sentenza. Sì. Ora la legge, che sarebbe dovuta partire dal primo di gennaio, ha difficoltà a emettere i suoi primi vagiti. Sì. Cioè ha difficoltà a nascere, perché ormai il primo di gennaio è già passato da un po' di tempo e tutto ciò che emerge è la difficoltà a far quadrare i conti, cioè a deliberare su un numero impressionante di decreti attuativi che reggono, che in qualche modo determinano la stessa legge Franceschini, e anche il tema della promozione culturale cinematografica alla quale poi a questo tema noi siamo strettamente legati, anche questo ha la necessità di vedere alla luce un decreto attuativo, che sono tutta una serie di norme regolamentari che poi determineranno il rapporto tra la Direzione Generale Cinema e i diversi soggetti che in qualche misura attuano le loro pratiche e i loro progetti. Per cui ecco, quello che io definivo un passaggio stretto è legato alla determinazione di un decreto attuativo che limiti, che modifichi in qualche misura una indicazione molto molto negativa, cioè non c'è più il riconoscimento storico delle associazioni, però può esserci un margine che ci consenta ancora di poter intervenire e lavorare in ambito nazionale e quindi ancora esistere. Insomma, c'è un margine stretto e questo noi vogliamo giocarcelo. Bene. Allora, speriamo di risentirci presto con delle novità. Marco, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla vostra attività? Grazie, grazie, ben volentieri. A presto, quindi. A presto. Ciao Marco. Grazie, ciao. Marco Asunis, presidente della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, per un bilancio dell'incontro che si è svolto a Cagliari dal 10 al 12 marzo. Parliamo adesso di un'altra uscita in sala, il documentario Il Pugile del Duce. Ne parliamo con il regista Tony Saccucci. Tony, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'ospitalità. Allora, una storia, una bella storia, anche se tragica. Raccontaci un po', Tony. La storia è la storia di un pugile di colore sotto il fascismo, un pugile fortissimo che si chiamava Leone Iacovacci, che diventò un campione a tutti gli effetti, amato dai romani, e che nell'incontro del 24 giugno del 1928 all'attuale Stadio San Mino, davanti a circa 40.000 spettatori, diventò campione europeo dei pesi medi. Dopo due giorni la Gazzetta dello Sport scrive: non può essere un nero a rappresentare l'Italia all'estero. E da quel momento in poi è iniziata l'operazione di censura e l'oblio, che è durato 90 anni. A partire dai quotidiani sportivi, ma anche dalle immagini dell'Istituto Luce, che di quell'incontro tagliò tutte le riprese finali, per cui non sappiamo per esempio della sua vittoria e insomma della sua gioia per il titolo appena conquistato. La censura fu una macchina perfetta, come in tutte le censure, in tutti i sistemi di potere. Funziona la censura se cancelli tutto. Il filmato dell'Istituto Luce, che dura 52 minuti, che ritrae le immagini del preincontro, dell'incontro, tutte e 15 le riprese, di colpo finisce alla metà della 15ª ripresa, e nei cartelli che vengono giustapposti, dopo ovviamente in fase di montaggio, ogni ripresa, quindi per 15 riprese, c'è sempre scritto: Bosisio, che era l'avversario, resiste a Iacovacci. Insomma, tutti i cartelli in cui non si capisce chi vince. La cosa paradossale è che sono sparite tutte le fotografie. Nessun appassionato di pugilato che ha raccolto migliaia e migliaia di fotografie possiede una fotografia di campione Iacovacci di quella sera, con un trofeo, o non sappiamo che cosa ha alzato, se la cintura, se il pugno, non esiste. Di pari passo rispetto all'avventura italiana di Leone come pugile, c'è anche il percorso che fece il fascismo nel mondo dello sport, e per cui innervò tutto il mondo dello sport, che divenne espressione del partito in qualche modo. Non ci sono dubbi, come racconta giustamente nel documentario l'autore del libro da cui ho tratto la storia, che si chiama Mauro Valeri. Il fascismo comincia ad investire fortemente nello sport a partire dal 26. Investire significa proprio che lo Stato comincia a dedicare dei soldi alla costruzione di un italiano nuovo. Lo fa con lo sport, lo fa con la cultura, contestualmente nasce l'enciclopedia Treccani, con lo sport però, calcolando che, forse questo è bene dirlo ai radioascoltatori, il pugilato negli anni 20 era lo sport. Tutte le prime pagine dei quotidiani erano dedicate al pugilato, così come oggi sono dedicate al calcio. Quindi avere un campione nel 28, riconosciuto da tutti, amato soprattutto dai romani, di origine chiaramente congolese, essendo però italiano, perché Iacovacci poi ci mette 4 anni a farsi riconoscere una cittadinanza che gli spettava di diritto, perché il padre lo aveva riportato dall'Africa nel 1905 e abbiamo noi ancora l'originale del notaio in cui il padre dichiara che è appunto un cittadino italiano perché è figlio suo. Quindi il fascismo si trova a dover gestire questa grossa grana, cioè un pugile di colore italiano che è famoso in tutta Europa. Forse in quel momento era uno dei più forti del mondo, un medio massimo come peso. Il paradosso vero è che nel 28 Iacovacci vince e inizia la sua rimozione dalla storia, e nel 28, guarda caso, combatte il primo incontro ufficiale, Primo Carnera, che poi diventerà l'idolo del fascismo, il campione dei mondiali di pesi massimi nel 1933. Oh, in tutta questa vicenda, e questo emerge anche dal tuo documentario, uno sport così popolare, dicevi, era lo sport nazionale per eccellenza, tutti i giornali ne parlavano in prima pagina a titoli cubitali, il mondo dello sport che teoricamente dovrebbe essere pulito e onesto, tutto questo avviene con il tacito comunque consenso e il silenzio generale sia del pubblico, che a parte rumoreggiare però insomma non esprime qualsiasi forma di opposizione, e di tutti i gangli organizzativi e gestionali dello sport. Allora, sicuramente l'incontro che diventò un simbolo, quello del 24 giugno 1928 allo stadio, allora si chiamava Stadio del Littorio, Stadio Nazionale, sì. L'attuale Stadio Flaminio, l'incontro fu gestito immediatamente dal Partito Nazionale Fascista, sì. Perché fu un incontro, forse fu il più grande evento sportivo di quegli anni, almeno fino al 28. Calcolando che probabilmente fu il primo evento sportivo andato in radiocronaca diretta, quindi fu un evento eccezionale, furono organizzati treni speciali, navette, c'erano tutti, c'erano Balbo, c'era Bottai, D'Annunzio che annuncia con una lettera la sua partecipazione, quindi fu un incontro importantissimo, istituzionale, si può dire, che gli italiani tutti fossero schierati dalla parte contraria ai fasci, questo non è vero, anzi c'erano molti iacobacciani. Nella fattispecie possiamo dire che i romani e i giornali romani erano schierati con gli iacobacci, mentre i milanesi e i giornali milanesi, primo tra tutti la Gazzetta dello Sport, erano palesemente contro gli iacobacci. Le testimonianze ci sono nel documentario, non spingiamo molto su questa cosa che è più di carattere filologico, ma in realtà se andiamo a vedere, per esempio, noi utilizziamo per raccontare la vita di Don Iacobacci fino al 27 una biografia di Edoardo Mazzia, che era il presidente della federazione pugilistica, un libricino piccolino che è resistito, ce ne saranno due o tre copie, di una lira, anche questa cosa è molto carina, costava una lira, in cui molto chiaramente Edoardo Mazzia dice che Iacobacci era stato trattato male e che gli spettava una rivincita rispetto ad un incontro precedente che gli era stato dichiarato nullo, quando invece lo aveva palesemente vinto. Aspettava insomma Iacobacci una rivincita e avrebbe dimostrato di essere un grande campione. Iacobacci questa rivincita ce l'ha, vince, e però dopo la censura si fa effettivamente forte, si fa censura, appunto. Senti Tony, la sua avventura pugilistica era cominciata su una nave da guerra inglese, poi a Londra e poi in Francia, ma anche all'estero, insomma i neri avevano difficoltà rispetto al mondo dello sport. Allora, all'estero probabilmente, io mi sono accorto studiando e anche parlando con Mauro Valeri, che in Francia diciamo erano più tollerati. Sì. In Inghilterra combattevano perché facevano un po' folklore, quindi aumentavano, lo facevano per la borsa, tanto che Iacobacci inizia a combattere perché sostituisce un pugile nero una sera, che dice la biografia di Mazzia, si era squagliato, era andato via, non si era presentato, e per 5 sterline Iacobacci inizia a combattere, vince l'incontro per KO e inizia la sua carriera. Quindi lui in realtà si sposta da Londra a Parigi, a Parigi rimarrà un bel po', e poi però anche lì non può combattere come per un titolo, perché lui non ha sostanzialmente una cittadinanza, si fa chiamare Jack Walker, ha un falso documento di identità, ma in Inghilterra i neri non possono combattere per il titolo, in Francia non ha la cittadinanza, e quindi nel 22 chiede la cittadinanza, si palesa di nuovo come italiano e dice: guardate, io sono Jack Walker, ma in realtà sono Leone Iacobacci, tanto che dal 22 in poi i titoli dei giornali lo chiamano indifferentemente Walker o Iacobacci, e quindi vuole la cittadinanza italiana. Il fascismo nel frattempo, con la marcia su Roma, ha preso il potere e ci metterà 4 anni, quindi alla fine del 26, a riconoscere a Iacobacci la sua cittadinanza, che invece gli spettava diritto perché era cittadino italiano dalla nascita, o meglio da 3 anni dopo la nascita. Sì, sì. Senti Tony, come hai conosciuto questa storia e come hai deciso poi di farne un lavoro cinematografico? Questa storia l'ho conosciuta alla presentazione di un libro di Mauro Valeri che era sulle Olimpiadi del 36, e alla fine ci siamo messi a chiacchierare, io avevo comprato il libro e Mauro Valeri mi ha detto ce l'ho io il libro per te, e mi ha regalato il suo libro che è Nero di Roma, la storia dell'invincibile mulatto italico, e io ho letto questo libro l'estate e sono rimasto letteralmente folgorato, perché sono 480 pagine di una ricostruzione molto attenta, molto professionale, molto profonda, storica, e i documenti c'erano tutti. Poi ho proposto all'autore del libro di farci un documentario, lui ha accettato, abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura, poi una sera, parlando dopo tre o quattro volte che buttavamo giù un canovaccio, lui mi ha raccontato, stimolato dalle mie domande, il motivo per cui ha lavorato così tanto su una sceneggiatura, scusatemi, su un libro, quindi su una biografia, ci ha lavorato 6 anni, un libro che non è, è molto difficile, quindi non poteva avere una grandissima diffusione, e lui mi ha detto quella sera qual è il motivo per cui lo ha fatto, e io da quella sera ho detto va bene, tu da oggi in poi sei parte integrante del documentario, perché io voglio raccontare anche la tua storia, cioè la storia che ti ha spinto a lavorare su questo meticcio italiano, questo nero italiano che comunque contribuì all'epoca a fare grande l'Italia, e la storia la racconto infatti nel documentario, perché Mauro Valeri, oltre ad essere il narratore, è anche in parte il protagonista del film, perché racconto la sua storia, non dico qual è, perché il film esce il 21, cioè martedì prossimo, al cinema. A Roma sarà al Barberini, al Farnese, io sarò in tutte e due le occasioni a presentarlo con grande piacere, forse verrà pure Mauro Valeri, e quindi non vi dico qual è la fine. Non, anche se va detto che ad oggi i problemi per chi ha la pelle scura non sono, sono cambiati, ma sicuramente persistono sotto varie forme, e non a caso il documentario esce in una giornata come quella del 21 marzo. Esatto, la giornata mondiale contro il razzismo, che dal film si evince che il razzismo, insomma, è una cosa, una stupidità che io ancora adesso faccio fatica a comprendere che possa esistere tra le cose degli uomini, però forse sono io. Senti Tony, in quante sale sarà? Sarà in parecchie sale, perché a Roma sarà in 2 sale, poi sarà in svariate città italiane. Penso da Verona fino a anche in Sicilia, forse Torino, Genova, Padova, Bari, Foggia, anche a Tivoli per esempio sarà, che è vicino Roma, ma anche Bergamo, Sesto San Giovanni, Rimini, Prato e tante altre, Bologna addirittura rimarrà 3 o 4 giorni in programmazione, ovviamente Milano, Mantova, insomma in parecchie sale sarà distribuito, essendo un documentario insomma siamo molto contenti. Senti Tony, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? C'è una pagina Facebook, un sito internet? Ma a questo punto credo che basterà cliccare su Google e Struggere del Duce, usciranno fuori parecchie cose. Bene. Nel senso che ne ha scritto, oltre ai giornali italiani tutti, Gian Antonio Stella ha fatto una pagina intera con richiamo in prima sul Corriere della Sera, Repubblica ci ha dedicato un'altra pagina, ma ne ha scritto il Times, ieri sera addirittura ci ha fatto un pezzo la CNN, insomma Leone Iacovacci forse stiamo per riscattarlo sul serio, ecco. è la sua rivincita, speriamo. Bene, allora speriamo di risentirci presto con delle belle novità. Tony, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie infinite, ciao, a presto. Tony Saccucci, regista del documentario Il Pugile del Duce, in uscita in sala il prossimo 21 marzo. Avremmo dovuto sentire anche Valerio De Paolis di Cinema sulla distribuzione del film Loving, in uscita in sala oggi giovedì 16 marzo, film al quale tra l'altro abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto dei protagonisti originali, una foto in bianco e nero dei protagonisti della vicenda di Loving. e a questo punto non è raggiungibile Valerio De Paulis, per cui ci speriamo di risentirlo la prossima settimana, e chiudiamo qui con Visionari di questo giovedì 16 marzo del 2017. 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta, e sempre sull'home page trovate anche nella colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, la scaletta e le informazioni sulla trasmissione, idem per quanto riguarda la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Anche questa settimana non è prevista Tracce di Cinema, che speriamo torni il prossimo giovedì alle 16, l'appuntamento è con Attica Blues. Giovedì prossimo torna anche Visionari, sempre dalle 14 alle 15. È tutto, buon proseguimento.